perché non tutti i sogni svaniscono all'alba. È vero, è vero. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Ci impedisce di ammuffire, che ci mantiene giovani ed entusiasti. Rick Pittino. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colore. Sorgerà un'altra notte finisce ed un giorno nuovo sarà. Anna, non essere triste, presto il sole sorgerà. In questi tempi si vende qualsiasi cosa, anche la verità, ma non sarà così sempre, perché tutto cambierà, cambierà, per ogni vita che nasce, cambierà, per ogni albero che fiorirà, cambierà, per ogni cosa del mondo, cambierà, finché il mondo ci vedrà, cambierà, per ogni vita che nasce, cambierà, per ogni albero. Ti sento, siamo una sola anima e celebriamo il momento ed il tempo che verrà. Se chi decide ha deciso che ora la guerra è la necessità, io stringo i pugni e mi dico che tutto cambierà. Per ogni vita che nasce, cambierà, per ogni albero che fiorirà, cambierà, e chi decide ha deciso, che ora la guerra è la necessità. che cambierà. Guardo di là, ma vengo di qua. È il momento della pubblicità. Sali in sella, è suonata la campanella. Sono Gigi D'Agostino. Tamarro bizzarro. Santo Stefano, lento, violento. Martedì sera, 26 dicembre 2006, dalle ore 22, Gigi D'Agostino suona a Cigliano, vicino a Torino. Discoteca 2. Discoteca 2. Vieni tu e le amiche tue. Vieni a Cigliano. Prendiamoci per mano. Infoline 392 822 5259. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente? M2O. Volevo ringraziare per questa musica. Dopo una giornata di lavoro, adesso finalmente mi sto riposando. Daniela da Torino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Acceso M2O. Vorrei ginnastica mentale. Baghi. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Fatico. Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Tale è la forza dell'abitudine che ci si abitua perfino a vivere. Gesualdo Bufalino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ciao Gigi, sono Umberto di Busnago. Non ti sentivo da 6 anni e devo dire che sai ancora darmi emozioni, nonostante la vita faccia cambiare opinioni. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una fragranza per l'ambiente. Di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. Potete far sentire la vostra voce. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Capito come? Se per te la per te la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. Te la prima volta, te la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. Se per te la per te la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. Capito come? Lasciati andare, lasciati andare. Se per te la per te la prima volta, lasciati andare. Capito come? Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. Capito come? Ovvio. Volevo fare gli auguri a Veronica per aver passato l'esame della patente. Ti voglio bene. Ti dedico una canzone scelta dal Gigi Doug. Lui sa sempre cosa mettere nelle occasioni speciali. Sì, sì. Fabio Gambolo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. I sogni non sempre si realizzano, è vero, ma non perché siano troppo grandi o impossibili, solo perché si è smesso di crederci. Martin Luther King. Il cammino di Gigi D'Agostino. Programa musical mental, ole, me gusta mucho más, que cacho. Sabato 16 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona a Latina, discoteca 24.000 baci. Se volete delle informazioni un po' più precise, potete andare sul mio sito www.gigidagostino.com oppure www.gigidag.com. L'anima dalla polvere della vita di tutti i giorni. Samuel Patterson. Viaggio incontaminato, un sentiero innamorato, la semplicità di un bambino, il cammino di Gigi D'Agostino, un piccolo paese fuori dal mondo.

Gigi D'Agostino. È il mio compleanno. Mando un grandissimo bacio alle mie due migliori amiche Alice e Sara. Vi voglio bene. Giulia da Vicenza. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che Ci sentiamo domani. Grazie.